Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Lam dice: indossate un abito che non ecciti gli uomini, che non sia... Eccola Maria Giulia Sergio, alias Fatima Azzara, Lady Jihad. Ospite in una trasmissione TV, nel 2009 era ossessionata dall'abbigliamento della donna musulmana. Io e il mio velo è una libertà, io sono libera, integrata. Maria Giulia, 28 anni, nata a Torre del Greco, studiava biotecnologia alla Statale di Milano ed abitava in Zago, nell'Interland del capoluogo lombardo. È diventata Fatima quando si è convertita all'Islam, quello più radicale, come mostrano le foto sul suo profilo Facebook, completamente velata. Questa stessa ragazza che parlava mite in uno studio televisivo, per gli inquirenti è oggi una jihadista convinta, fuggita in Siria per combattere in nome di Allah. Vietata, violenta, è quello che emerge dall'interpretazione. Certo è che le foto che appaiono sui giornali continuano ad apparire perché è un argomento caldo, un argomento che tocca profondamente la sensibilità, il nemico per eccellenza attenta alle tue donne. Beh, le foto che postano i giornali di Maria Giulia Sergio nella sua versione islamizzata non danno certo l'idea di grande libertà, lei è coperta una sorta di copertone color violaceo con i guanti e gli occhi che appena appaiono dietro una fessura nella sua nuova versione di Fatima. Nulla da eccepire, ognuno fa le scelte che vuole, anche nei nostri conventi di clausura ci sono donne coperte dalla testa ai piedi che stanno rinchiuse dentro, uno può fare le scelte individuali che meglio crede, ma in questo caso c'è una particolarità su cui vale la pena di discutere. La vicenda di Maria Giulia Sergio è notissima, un'intera famiglia convertita, padre si è fatto crescere la barba, si era messo il caffetano islamico, la madre anche lei sarà coperta e si preoccupava se ci fosse la lavatrice, visto che la figlia insisteva di non fare la loro fuga verso la Siria per partecipare al califfato, la sorella pure convertita, insomma tutta una famiglia che aveva deciso di fare questo passo. Se fossimo in tempi normali non sarebbe nulla di strano. Ripeto, ognuno fa le scelte che vuole, ma in questo caso assume un elemento diverso e lo dico perché ormai mi è capitato nelle ultime settimane, e sono almeno 4-5 casi di persone che conosco, donne che conosco variamente nubili, sposate, accompagnate e via dicendo, che vengono contattate tramite i social network da signori dal cui cognome, il cui aspetto chiaramente di appartenenza a stati islamici, che gli domandano se sono sposate, perché evidentemente c'è una grande attenzione comunque alla conversione, ma conversione non soltanto a uno stile di vita, a una visione metafisica e religiosa dell'esistenza, ma acquisite a far parte, a rimpolpare quelle che sono le forze del califfato. Beh, su questo oggi vorrei fare qualche domanda alle persone che mi ascoltano. Vi è venuta mai la tentazione di sposarvi un signore vestito di nero con il coltello al fianco, di seguirlo verso questa battaglia di conquista del mondo e di affermazione comunque di qualcosa che è sempre stato lontano dai vostri stili di vita, dalla vostra visione del mondo, e improvvisamente diviene centrale? Qual è la molla profonda, al di là di una lecita scelta religiosa, secondo voi, che porta le donne a seguire questa sorta di visione fanatica dell'esistenza, di sopraffazione, di rimessa in discussione tutto quello che può aver rappresentato comunque un valore, una sicurezza? Sono le piccole, modeste, labili e indefinite cose sulle quali noi siamo stati allevati, cresciuti, su cui abbiamo impostato le nostre imperfette vite. 800240024. Ecco cosa diceva ai suoi familiari, pronti a raggiungerla per lottare al fianco dell'ISIS. Noi dobbiamo odiare i miscredenti, a questa gente deve essere tagliata la testa. Quante volte ti ho detto, oggi hanno tagliato una mano di qua e di là, questa è la legge di Allah, lode a lui, l'Altissimo. Noi qui stiamo ammazzando i miscredenti per poter allargare lo Stato Islamico, ok? Parole atroci. Non vedo l'ora di morire da martire. C'è bisogno della legge islamica e qui abbiamo la legge islamica. È inarrestabile Lady Jihad, che spiega anche il piano di conquista dell'Italia da parte dei terroristi. Mamma, non preoccuparti di niente. Tu vendi questi mobili con calma, inshallah. E poi fate il viaggio sacro e io da qua vi organizzo tutto. Perché lì ci sono dei mujahideen, in Italia. Hanno dei collegamenti, non preoccuparti. Però l'importante è che voi non parlate con nessuno. Avete sentito bene. Fatima parla di mujahideen in Italia. Mujahideen. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ricordo, esperto di marketing e comunicazione strategica, autore del libro ISIS, il marketing dell'apocalisse, Baldini e Castoldi, già alla prima ristampa, quindi vedi che avevo ragione. Che dovevi fare un libro sulle vicende che riguardano l'ISIS dal tuo punto di vista di pubblicitario. Te ne ringrazio. No, ma adesso non è che sto ogni volta che ti chiedo il pegno. No, perché adesso ti faccio una domanda proprio su questo. Ecco, quanto assomiglia questa sorta di ricerca e cooptazione della femmina occidentale, europea, alla battaglia dell'ISIS, a quei caroselli della prima generazione in cui queste massaie col tacco a spillo, con la gonna carina, con la camicetta bianca, coi volant, si mettevano il grembiulino e in perfette, stupende cucine all'americana, come si chiamava allora, mostravano la gioia di avere finalmente l'elettrodomestico che la affrancava dalla loro schiavitù. La libertà della massaia anni 60 era quella di averci il frullatore, l'aspirapolvere, il tritatutto, via dicendo, rimaneva schiava ma era circondata comunque da accessori che davano a lei la felicità. La media signora, ragazza occidentale europea di cui diciamo il normotipo è rappresentato dalla signora Maria Giulia Sergio alias Fatima, è stata presa in una macchina pubblicitaria simile a questa per definire che la sua libertà è mettersi un tabarro che la copre completamente, andare a persone che la trattano peggio che un oggetto? Sì, c'è una propaganda molto efficace da parte dello Stato Islamico ed è diretta all'Occidente, proprio per cominciare a sgretolare alcune certezze e fa leva sull'insoddisfazione che c'è, perché in questo momento l'Occidente non si è ancora accorto della crisi di valori in cui versa. E queste persone stanno cercando un apparato di valori solido che non l'Occidente, che l'Occidente, il cattolicesimo, un po' tutto quello che c'è qui, non è più in grado di dargli. Quindi è meglio essere schiave e maltrattate piuttosto che dover prendersi delle responsabilità, pensare o cercare dei punti di riferimento che non si trovano, detto sì, brutalmente. Occorre un'ideologia forte. Se fosse stato il nazismo, queste aderivano al nazismo. Il problema è esattamente questo, la crisi dei nostri valori. Non ci sono alternative. Loro le trovano qui, faccio un esempio, non c'è solo la Sergio. Silvia Laila Olivetti si è convertita nel 2004, veneziana, classe 65, e veniva da genitori sessantottini, che vuol dire ugualmente zero valori, perché dobbiamo anche riconoscere che il 68 non è stata una alternativa ai valori diffusi socialmente dall'establishment. Oggi su Libero, che c'è una figurati, ci inzuppano il pane in una maniera terribile, e c'è una rassegna di tutte le convertite, appunto cita anche la ragazza che hai detto te, ma non somiglia un pochino a quelle adesioni folle di figli, delle figlie di ottima famiglia, allora ai progetti brigatisti, perché è un atto altrettanto senza uscita, senza speranza, non se ne vede proprio qual è il passaggio di emancipazione di una donna che fa 2000 anni indietro rispetto alla civilizzazione imperfetta ma che sta vivendo. Non è preciso, cioè dobbiamo precisare un attimo che questo passaggio non implica il passaggio al terrorismo, cioè l'Islam è un'alternativa forte al cattolicesimo in crisi. Per queste persone non ci sono valori in giro a cui fare riferimento. Quando qualcuno propone una religione che, anche se discrimina la donna, in realtà la fa rispettare, la incapsula in un rito sociale e in regole che sono molto più forti di quelle che abbiamo. Le dà un ruolo. Sì. Non è una scelta delle tante scelte alternative, come era fare un viaggio in Tibet, convertirsi a tutte le varie forme di buddismi occidentalizzati, e diventare vegetariani assoluti, recitare mantra e via dicendo. Qua è qualcosa che però il punto di caduta successivo è molto vicino e molto contiguo, sai? Sì, il problema problema è che poi le scelte successive possono essere personali. La Sergio è passata proprio dalla parte dei terroristi, queste ad esempio la napoletana, un'altra napoletana, la veneziana che ho appena citato, non necessariamente sono diventate terroriste, però il problema è sempre lo stesso, cioè quale Islam si sceglie. E poi l'Islam, a monte di tutti questi discorsi, non ha ancora fatto la sua riforma. Noi ci siamo passati col cattolicesimo, loro ancora discriminano la donna, e c'è un movimento di idee per la riforma che parte proprio da delle donne. Questo è il dato importante. È ancora un po' presto. La salvezza viene proprio se le donne a un certo punto si ribelleranno a tutto questo e rimporranno la loro presenza. Allora sì, che l'Islam potremmo vederlo nella sua versione che tutti ci auguriamo. Luca, buongiorno. 800 24 00 24. Stanno prendendo le nostre donne, stanno seducendo le nostre donne, le stanno cercando di cogliere attraverso i social network. Lei cosa ne pensa? Ah, guardi, questo non lo so, ma io ho l'esperienza di un'amica che mi raccontava che intorno ai 25 anni si era fidanzata con un medio orientale che era qui a Milano, e è andata poi giù alla sua nazione, questa Damasco mi sembra come città, per conoscere la famiglia, ed è rimasta là 6 mesi. Quando è tornata, perché si è rotto fidanzamento, è dovuta andare dallo psicologo qui in Italia, perché era completamente cambiata mentalmente dalle regole che c'erano, dal ruolo che davano. C'erano questi uomini forti, con autorità e consapevolezza, avevano messo in evidenza la carenza di un padre, la carenza del ruolo maschile qui in Italia. Ah, già si era data la spiegazione tipo psicoanalitico, cercava il padre, quindi ha trovato il sostituto. È un po' semplicistica come lettura. Non lo so, allora devo essere semplicistico perché non posso stare al telefono per quarti d'ora, poi riporto la storia di un'amica. Lei mi dice, comunque io quel ruolo così forte, di un padre forte, di un maschile forte che mancava qua, io non mi sono neanche accorta, mi ha cambiato. Tornato indietro qui in Italia non mi trovavo più, accusavo il mio padre di non esserci, che non faceva il suo ruolo, sono tornato a curarmi dallo psicologo. Esattamente quello che diceva Giulia Sergio al padre, devi sottomettere la mamma, devi sottomettere la mamma, mamma devi essere subordinata al padre. Sì, come dice Ballardini, c'è un riposizionamento dei ruoli secondo una polarità non più ambigua, l'uomo è uomo, la donna è donna, ma secondo me basta scendere un pochino da Roma in giù e si trovano situazioni, se uno proprio vuole una figura centrale dell'uomo autoritario che sia territorialmente accettata e stia negli usi comuni. Ci fermiamo solo un istante con Ballardini, riprendiamo dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Stiamo affrontando un tema che più volte è stato oggetto delle nostre riflessioni, che è quello appunto del conflitto fra Oriente e Occidente nella sua accezione più vicina, più contemporanea, che è il confronto fra gli uomini dell'Isis, del Califfato e il resto del mondo, poi così può essere sintetizzata, visto però da un punto di vista che emotivamente forse colpisce di più l'opinione generale, le donne che stanno lentamente transumando verso un'idea che è totalmente antitetica al mondo che abbiamo sempre conosciuto e sempre frequentato. Per questo ci stiamo confrontando con Bruno Ballardini, anche perché sarà l'ultima volta che ci sentiamo in questa edizione, visto che la prossima settimana la trasmissione si sospende, entra nella sua pausa estiva, che ricordo che è un esperto di marketing e comunicazione strategica, quindi legge il fenomeno ISIS da un punto di vista proprio di campagna nei confronti dell'Occidente, campagna di marketing strategico all'interno per creare consenso. È stato autore di un libro, ISIS, il marketing dell'apocalisse, Baldini e Castoldi, che già a poche settimane dalla sua uscita è stato ristampato, quindi è una lettura molto interessante. Bruno, la importanza e la conoscenza e l'uso dei social network da parte di queste persone, e parlo delle persone che comunque fiancheggiano, impolpano i ranghi, costituiscono l'esercito sommerso dell'ISIS, ha in qualche maniera un possibile risvolto verso una sorta di captazione di donne, proprio per il fatto che portarsi le donne dalla propria parte significa indebolire notevolmente quello che è il fronte emotivo del nemico? Io credo che fondamentalmente quando loro dicevano verremo a prendere le vostre donne, intendessero questo. Le prendono su Facebook, non le vengono a prendere per i capelli come i romani e le sabine. Alla fine le prendono, perché l'amo lanciato sul social network produce questo risultato. Guarda, questa cosa non l'ha ancora scritta nessuno, e tu che sei bravo avrai tutta l'estate per farci un'indagine approfondita. Credimi, sta svolgendosi su Facebook, soprattutto, che è il mezzo più usato, una sorta di sottile, simpatica, allegra, amichevole, basata sullo scambio di cultura, sull'apertura, ma campagna di convincimento nei confronti delle donne, che se molte donne lecitamente stanno ai social network anche per darsi un'occhiata intorno, per vedere se trovano finalmente uno straccio d'uomo decente, e questo non c'è nulla di male. E molte volte lo straccio d'uomo decente si presenta con un bel signore barbuto, molto esperto, molto, molto intelligente, molto colto, che parla benissimo le lingue, che però gli fa capire che probabilmente la prima domanda è proprio quella: ma sei nubile o sei sposata? Sì, adesso dirò qualcosa che mi creerà molti nemici. Io ho già fatto che, adesso. Diciamo che questo sistema, questo metodo è molto simile a quello con cui viene diffuso il sadomaso, cioè con delle chat apparentemente romantiche, erotiche, eccetera. La moda del sadomaso ha la stessa origine, cioè il bisogno di sottomissione da parte di persone che non trovano più valori forti all'interno della famiglia e della società. È chiaro che è molto più pericoloso l'Islam, perché in certo senso il sadomaso si fa in ambiente protetto, però non è permesso, perché per queste persone che sono di origine cattolica è visto come peccato. Allora, quindi si arriva gradualmente, si comincia qualche schiaffetto sulle natiche e poi si passa all'incatenamento. E in questo caso probabilmente è lo stesso meccanismo, si comincia, confrontiamo le nostre culture, ma in fondo la nostra è una visione amena, e poi alla fine si finisce con le frustate se soltanto ti scopri una caviglia. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione anzitutto. Niente, io volevo dire una cosa che secondo me non molti fanno questo tipo di considerazione. Secondo me questa ragazza Sergio mi puzza tanto di montatura, perché uno, non penso che una persona passerebbe da uno stile di vita a uno decisamente retrogrado. Beh, oddio, ci sono un'infinità di signore che diventano suore di clausura, mangiano pane e acqua e stanno tutto il resto della loro vita inginocchiate. Stiamo parlando dall'essere considerati quasi paritari all'uomo secondo la nostra società occidentale, a passare ad essere considerati zero, perché questo sono le donne dell'Islam, o almeno questo. Ma perché lei si meraviglia tanto? Ci sono signore e signorine che fanno patti di sottomissione, come ha detto Ballardini, in accordi sadomaso, e accettano di essere legato a un termosifone e essere lasciate lì mezza giornata, tanto perché il loro padrone glielo impone o cose del genere. L'essere umano è molto variegato, io non mi meraviglierei di questo. Una profonda contraddizione, se mi permette. Sì. Il fatto che questa figlia si rivolga al padre in una maniera così: devi prendere la mamma per i capelli, cioè, ma se la donna deve sottomettersi all'uomo, anche la figlia deve sottomettersi al padre, secondo me. Quindi per lei vede un controsenso. Lei però in questo momento sta dalla parte della verità, il padre è ancora dalla parte dell'imperfezione, dice devi vivere davvero uomo, e in questo però in effetti lei veramente lo dice alla madre, lo dice al padre: mamma, devi obbedire al papà e essere sottomessa. Lei al padre dice soltanto: c'è tanta terra da lavorare, quindi non ti preoccupare, vieni a lavorare da noi. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono abbastanza d'accordo su quello che è stato detto. Però magari io penso che queste scelte vengano fatte anche sulla scia della paura. Quindi, dopo tutto quello che viene mandato in TV, eccetera, magari pensano: mi alleo o passo dalla parte del più forte. Almeno non mi tagliano la testa. Non mi tagliano la testa, passo alla parte. Ma in questo caso però c'è un passaggio diverso. Ci sono stati due mariti comunque che in questo caso l'hanno portata a ragionare così. C'è proprio un rapporto, una donna che si sposa con un uomo che le impone comunque una visione totalmente diversa dell'esistenza, e abbraccia totalmente quella visione. Però il passo successivo, come diciamo con Ballardini, è quello di passare da una professione di fede lecita, sulla quale non c'è nulla da dire, a una professione di lotta, guerra santa, di lotta comunque a quello che è un nemico, solo per il fatto che è diverso da te dal punto di vista della credenza religiosa. La credenza religiosa, ho detto un controsenso, della fede religiosa. Marco, Marco, ha parlato Alessandro. Alessandro. Alessandro. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Ecco, io ecco, sono rimasto molto colpito dalla frase in cui si è detto che se oggi ci fosse il nazismo, probabilmente alcune persone aderirebbero al nazismo. Cosa che è accaduta comunque. Certo. E persone anche normalissime. La questione della crisi dei valori. Ecco, io mi domando se è un ragionamento possibile quello del fatto che il, diciamo, da noi magari il nostro riferimento religioso, la Chiesa nostra cattolica, insegue un po' troppo il laicismo occidentale, creando di fatto una crisi di... Ma lei vorrebbe, diciamo, uno Stato teocratico anche da noi, in cui la religione impone le leggi e impone i comportamenti? No, io complemento opposto. Io sto dicendo è che a forza di inseguire il laicismo e di modernizzare continuamente la Chiesa, si crea l'effetto che chi non crede continuerà a non credere, e non perché si apra crederà, sì. E chi invece crede si trova in difficoltà, in crisi dei valori, e può cercare altro. Insomma, la società ideale sarebbe una società in cui sono separati due domini della credenza e dell'effettiva capacità di avere dei valori civili, ma ahimè, vedo che siamo ancora lontani. Grazie Ballardini, ci sentiamo forse dopo l'estate. A presto.